Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861, il censimento e i fronti aperti di un governo in bilico. Le cifre stanno destando qualche preoccupazione. In questo caso non sono quelle del deficit e del debito pubblico, non solo quelle, sono i primi dati che stanno emergendo dal censimento proposto dal ministro dell'Agricoltura, Commercio e Industria Cordova. Per completare le operazioni ci sono voluti appena 3 mesi, ma il quadro che emerge è quello di un paese arretrato dal punto di vista economico e da quello sociale. Il 70% del prodotto interno lordo è di origine agricola, solo il 17% arriva dall'industria. L'80% circa degli italiani non sa né leggere né scrivere, mentre solo il 2% parla la lingua che dovrebbe essere comune, gli altri dialetto. Del resto, malignano dai territori da poco annessi, lo stesso Vittorio Emanuele si trova più a suo agio col piemontese che con l'italiano. Ci sono molte cose a cui mettere mano e l'esecutivo guidato dal barone Ricasoli non sembra essere, stando a molti analisti politici, nelle condizioni di proseguire a lungo. Certo, fanno notare da ambienti della maggioranza, il compito è quello di costruire uno Stato quasi da zero. I decreti approvati in ottobre stanno tentando di dare una struttura all'Italia, centralizzando e istituendo la figura del prefetto rappresentante del governo nelle realtà locali. C'è da gestire la questione del brigantaggio, che nel sud sta diventando un problema serio, alimentato dall'opposizione alla leva militare e alla pressione fiscale. Dai 15.000 effettivi dislocati nel mezzogiorno si è passati a 50.000. Altre spese dunque per un bilancio dello Stato già fiaccato. A questo si aggiunga qualche problema di credibilità per il ministro delle Finanze Bastoggi, proprio lui che i conti dovrebbe tenerli in ordine. Nel grande libro del debito pubblico ha provveduto ad incamerare il debito contratto dal Granducato di Toscana per sostenere la repressione contro le rivolte del 1849. Non bastasse l'accusa di scarso patriottismo, si è aggiunto l'interesse personale, almeno presunto. Quei soldi, dicono alcune fonti, al Granduca li aveva prestati proprio la banca di Bastoggi. Voci per ora, ma che su un governo già debole rischiano di avere un effetto dirompente. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.